Riuscire a camminare a piedi nudi tra le rose e non sentire più dolore. L'amore fa male. Cambiare spesso le modulazioni di frequenza per non farsi intercettare. La fuga migliore. Cercare in un cassetto le promesse che non puoi più mantenere. Guardarmi in uno specchio all'improvviso e aver paura di impazzire. L'assenza è come una valigia vuota che non riesco a trascinare. E adesso tu mi manchi da morire. Io ti amerò per sempre. A volte sai si mente e stringerò l'istante di un'alba nuova che ci consuma. Io ti amerò per sempre. E mentre il mio respiro si trascina sulla pelle come il vento tra le onde del mare, diventa sudore. Restare in equilibrio sopra il filo del piacere e non cadere. Tremare in un abbraccio nell'eternità di questo temporale. Le unghie su pareti che purtroppo non riesco a demolire. Fermare per un attimo il rumore delle dita sopra.